kiruti piruti kika Dani jiga paniri dani sare kabe Piku yoshori tushu kabini dizinye kashini ora mazeza kabe Pisuri kiruti piruti kika Dani jiga paniri dani sare kabe Piku yoshori tushu kabini dizinye kashini ora mazeza kabe Bupure kashinya bito Rawa keta nere ginyato Bupure rashinya bito Rawa keta nere ginyato Shiga keta riki bai keshela Ora maze vera tigenda shela Lushpayu kwini shela Malibi tigeza barakuba ora mabeda Shiga keta riki bai keshela Ora maze vera tigenda shela Lushpayu wini shela Malibi tigeza barakuba ora mabeda Pupure rashinyabito Rawa keta nere ginyado Pupure rashinyabito Rawa keta nere ginyado Rashinyabito, rawa keta nere ginyato.